essere e avere. Benvenuti all'Hotel Transilvania. È un luogo da me costruito per tutti i mostri che cercano rifugio dalle persecuzioni del genere umano. Un luogo di rilassamento e tranquillità. C'è nessuno? Un umano? Cos'è questo posto? Non sempre l'hotel è l'esperienza che cerchiamo per una vacanza. Il successo delle piattaforme di home sharing, Airbnb su tutte, lo testimonia. Un modello e un mercato che ora guarda anche all'ospitalità di lusso. Un modello che anche i giganti del settore alberghiero iniziano a integrare nella propria offerta. La sharing economy dunque, come abbiamo sottolineato e anticipato più volte, inizia a produrre modelli ibridi, complementari all'offerta tradizionale, perché le esperienze di consumo ormai hanno abbattuto molti steccati. Oggi vi raccontiamo il lancio anche in Italia di onefinestay.com, una sorta di via di mezzo tra Airbnb e un hotel di lusso. Quando i proprietari mettono a disposizione la casa, residenze di pregio super selezionate, gli esperti di onefinestay provvedono a tutti i servizi per gli ospiti, dalle pulizie a uno smartphone personale, pensate, da usare durante la vacanza. Fondata nel 2010, onefinestay ad oggi conta oltre 2500 case nel mondo e annovera fra i suoi ospiti cantanti, produttori cinematografici e personaggi di fama mondiale. Recentemente è stata acquistata da Accor, uno dei principali gruppi alberghieri francesi a livello internazionale, che ha annunciato di voler lanciare 40 nuove destinazioni nei prossimi 5 anni. Federico Neto è il General Manager Italia. OneFestay è il pioniere di un nuovo modello di ospitalità che noi chiamiamo su misura, perché garantisce sia agli ospiti che ai proprietari di casa una esperienza abbastanza unica. Possiamo dire che è la versione lusso in qualche modo di Airbnb? Siamo un po' di più di Airbnb, in quanto Airbnb è una interessantissima piattaforma che mette in rapporto domanda e offerta. Noi in realtà diamo al proprietario di casa dei servizi, è quello che noi chiamiamo peace of mind, cioè il fatto che lui non si deve più preoccupare di niente, e all'ospite gli diamo una vacanza con dei servizi aggiuntivi che, diciamo, la società Airbnb non dà, al massimo dà il proprietario di casa di Airbnb. Quello che noi facciamo è selezioniamo delle case nelle location più belle delle città, poi appena l'ospite arriva noi gli mandiamo una nostra persona che chiamiamo il meet and greet e lo accogliamo nella casa, dove gli facciamo vedere il funzionamento della casa, gli spieghiamo cosa deve fare per godersi la vacanza al massimo e diamo un iPhone omaggio per tutto il periodo del soggiorno, con all'interno tutta una serie di informazioni sia sulla casa, per cui se ha un problema su come si accende l'aria condizionata lo può direttamente trovare all'interno dell'iPhone, e poi tutta una serie di suggerimenti dati dal proprietario sul vicinato e sul suo rione. Quindi gli facciamo vivere l'esperienza vera di chi vive veramente in quella casa. Il proprietario di casa non deve più pensare a niente, quindi siamo noi che ci occupiamo della sistemazione della casa, la puliamo, mettiamo noi non soltanto le famose lenzuola e gli asciugamani, ma addirittura noi mettiamo il coprimaterasso, proprio per far sì che lui sia assolutamente sicuro. Poi sigilliamo tutte le parti della casa che lui non vuole che siano aperte o siano toccate. Dopodiché noi gestiamo tutto della casa, dalle manutenzioni a fare in modo che la casa sia sempre perfettamente pulita e funzionante. Tutto questo per che prezzo? Noi ci chiamiamo Smart Luxury, quindi lusso intelligente. Il prezzo non è un prezzo inarrivabile. Noi ci confrontiamo con gli hotel a 4 stelle e noi ci confrontiamo con case di, diciamo, di lusso. Il prezzo comunque è assolutamente accettabile, ci trovano benissimo case bellissime in posizioni veramente notevoli a partire da 250 euro, che diviso per una famiglia è assolutamente accettabile. Soggiornare in una casa è completamente diverso da stare in una camera di hotel. Pensa soltanto alla differenza tra stare in una camera di albergo o in una suite con vista sulla Torre Eiffel o in una mansion con piscina a Los Angeles. Sta diventando veramente un settore che prima era di nicchia e invece adesso molte persone, quando vanno in vacanza, subito pensano ha una casa e non ha un albergo. Anche a Roma abbiamo avuto produttori di Hollywood o gente del cinema che è venuta in ricerca di una location per girare il prossimo film. Scrivi lettera a Catherine. Lettera a Catherine Closen. Cara Catherine, ho pensato tanto a tutte le cose per cui ti vorrei chiedere scusa. A tutto il male che ci siamo fatti. A tutto quello di cui ti ho accusata. A tutto ciò che avevo bisogno che tu fossi o dicessi. Ti chiedo perdono. Ti amerò sempre perché siamo cresciuti insieme e mi hai aiutato a essere chi sono. Voglio che tu sappia che ci sarà sempre un po' di te dentro di me. E ti sono grato per questo. Chiunque tu sia diventata, in qualunque parte del mondo tu sia, ti mando il mio amore. Sei mia amica per sempre. Con amore, Theodore. L'intelligenza artificiale farà molte cose al posto nostro, alcune però sopravviveranno e alcuni gesti, anziché scomparire, affiancheranno quelli digitali, assumendo un significato diverso. Nonostante tutte le sentenze di morte, la scrittura a mano non morirà e i segnali ci sono già tutti. Da successo di brand come Moleskine, Fabriano, Clairefontaine, al boom di libri quali Come sopravvivere al mal d'amore, guida di automedicazione per cuori infranti e il fenomeno Carrie Smith con i bestseller Questo non è un libro e Distruggi questo diario, che sono in pratica libri taccuini da riempire di scritte, ritagli e scarabocchi, fino alle scuole, ai corsi di calligrafia con le neuroscienze che dimostrano come la scrittura a mano favorisca l'organizzazione mentale, quindi l'apprendimento. È vero, la scrittura a mano è tornata di moda, ci dice Francesca Biasetton, illustratrice e calligrafa, presidente dell'Associazione Calligrafica Italiana. Noi riscontriamo un crescente interesse nei confronti della scrittura a mano in genere, non particolarmente della calligrafia. Sono due cose simili, ma sono due cose diverse. La scrittura a mano è appunto quello, scrivere manualmente, mentre la calligrafia è una scrittura a mano educata. In italiano non abbiamo due parole come in inglese per definire, per distinguere le due pratiche. Ci sono anche star internazionali, ci sono calligrafi seguitissimi. Certo, noi abbiamo iniziato, noi vecchi diciamo, abbiamo iniziato ai tempi pre-internet, comunque pre-rete, pre-Facebook, e quindi far conoscere il nostro lavoro, cioè che esiste la professione di calligrafo in tempi in cui la comunicazione viaggiava in un altro modo, è stata abbastanza difficile, ma direi che ci siamo riusciti, i risultati li abbiamo assolutamente ottenuti. L'associazione ha compiuto 25 anni quest'anno, che abbiamo festeggiato con un convegno proprio sul tema della scrittura a mano, non della calligrafia. Ci sono corsi di calligrafia, magari è una realtà che non tutti conoscono, chi li frequenta, a chi sono destinati? Allora, il pubblico è abbastanza vario. Dobbiamo dire che c'è un interesse assolutamente crescente e un abbassamento dell'età, abbiamo riscontrato ultimamente. Il problema è che bisogna sempre stare attenti quando si segue un corso, specialmente in una materia che non ha un albo, non ha delle definizioni giuridiche o particolari, bisogna sempre stare attenti con chi si studia. Devo dire che gli insegnanti che propone l'Associazione Calligrafica Italiana sono tutti dei docenti che sono attivi professionalmente come calligrafi, ognuno presenta il suo modello, perché il percorso di studio prevede l'apprendimento di dei modelli storici di scrittura. e da queste basi poi ognuno si muove, diciamo, col tempo, con tanto esercizio, verso le sue personali variazioni, un po' come studiare la musica, no? C'è qualcosa di codificato, che noi possiamo leggere uno spartito di un qualche pezzo musicale con tante note rispetto all'esecuzione, però poi ognuno lo esegue nella sua interpretazione. È così la stessa cosa per le scritture storiche. Parliamo di scrittura a mano in un'epoca di profonda digitalizzazione, ormai tutto è touch, tutto è digitale, noi stessi, insomma, nella quotidianità scriviamo al computer un po' tutto quello che ci serve. Si sta riscoprendo la pratica della scrittura a mano e anche i giovani la stanno riscoprendo. Perché? Perché è qualcosa che non possiamo assolutamente dimenticare. Ora, non è il mio compito, io non sono una studiosa di neuroscienza di questi argomenti, io sono solamente un tecnico della scrittura, però l'apprendimento della scrittura è fondamentale. È diverso impugnare uno strumento e fare un gesto che comunque nasce all'interno di noi, specialmente se pensiamo ai bambini, che devono comunque abbinare un suono a un segno grafico, imparare a scrivere, a leggere. Poi non voglio assolutamente essere confusa con qualcuno che si muove contro il mondo digitale, sono due sistemi, uno non esclude l'altro, bisogna usarli tutti e due, però bisogna saperli usare, specialmente per evitare che la rete usi noi, ecco. E poi comunque siamo un po' anche tutti feticisti della carta, degli strumenti per scrivere, ecco, le penne, le matite, i vari tipi di carta, c'è anche tutto un mondo che ruota intorno a questo. Passato e futuro insieme, dunque. A Milano, intanto, quartiere Bicocca, il supermercato del futuro firmato Coop, ve lo ricordate, ad Expo fu un grande successo, è diventato realtà. Banchi interattivi, etichette aumentate, scaffali verticali e schermi con le informazioni in tempo reale. Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, al microfono di Enrico Pagliarini. Era l'ambizione, quando abbiamo fatto il supermercato in Expo, fare un'esperienza non solo che fosse un colpo e via, ed è stato molto apprezzato lì, ma di fare una cosa che potesse avere delle evoluzioni, potesse anche diventare un laboratorio per soluzioni per la nostra rete di vendita. Questo è il passaggio successivo, un negozio che vive tutto l'anno, che vive in un quartiere tra virgolette normale, su una dimensione tra l'altro medio e piccola, e quindi stiamo sperimentando delle soluzioni che possono davvero essere applicabili a gran parte della nostra rete di vendita. Questo quindi sarà anche un laboratorio, e le soluzioni che ci sembreranno più interessanti, a partire da quelle sulla trasparenza informativa e sui Kinect, intendiamo portarli su molti altri negozi della nostra rete di vendita. I vantaggi per le persone che frequenteranno il negozio saranno una facilità sull'informazione molto significativa, noi speriamo anche un ambiente favorevole che possa favorire lo scambio tra le persone, una piazza aperta, pur essendo un negozio concentrato sul libero servizio, cioè non ci sono banchi serviti se non tutta la parte di ristorazione che è collegata al negozio. Quindi noi pensiamo che si possono usare le tecnologie per dare più trasparenza e informazione, e questo è molto domandato oggi dai consumatori, è cresciuta enormemente la richiesta di informazioni sui prodotti, sul loro uso, sulla provenienza delle materie prime, eccetera, sull'impatto ambientale, e questo lo si può fare con queste tecnologie ben oltre le etichette dei prodotti, e in più pensiamo che possa essere anche un formato, diciamo così, di evoluzione tra il vecchio concetto di supermercato e una nuova idea di come si può fare la spesa e si possono fare gli acquisti. Ben ritrovati e buon anno da Maria Luisa Pezzali, puntata meglio di quella di questa sera, con una selezione di quanto vi abbiamo proposto nelle ultime settimane, in attesa di ripartire con i nuovi temi dell'anno appena iniziato. Sapete qual è la probabilità di fare 6 al Superenalotto? Una su 622 milioni. Numeri alla mano, è più facile che un asteroide colpisca la Terra in un giorno preciso. La prima delle storie che vi riproponiamo ha a che fare con la matematica come alleata di vita. Ben, diciamo che stai giocando in televisione e hai la possibilità di scegliere fra 3 porte diverse, intesi? Dunque, dietro una delle porte c'è un'auto nuova, dietro le altre 2, capre. Quale porta scegli, Ben?

noi quanto ci fosse di psicologia, di tecniche di vendita, ma soprattutto dei nostri bias cognitivi, cioè dei nostri errori che fa la nostra mente ogni volta che vogliamo valutare, diciamo, qualcosa. Tu bel bimbo, bimbo mio dolce, dimmi cosa vuoi che io ti canti. Cantami dei numeri, la serie, sino a che io oggi non la impari. La matematica però non è per tutti, o almeno così sembra ai più convincere. I più, che nessuno nasce negato, è appunto l'obiettivo di Redoc.com, piattaforma di didattica digitale dedicata alle materie scientifiche, le cosiddette materie STEM, acronimo che sta per scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. La matematica è uno sport alla portata di tutti, dicono i suoi fondatori, dove il trucco è allenarsi. Chiara Burberi. Questa piattaforma ha l'obiettivo di convincere tutti gli italiani che nessuno nasce negato, ma magari ci si diventa perché magari non abbiamo avuto la fortuna di aver avuto grandi maestri a scuola che ce l'abbiano insegnata bene, ci abbiano fatto innamorare di questa magnifica materia che in realtà è ovunque attorno a noi e quindi è veramente una scienza a supporto della nostra vita quotidiana. Voi a chi vi rivolgete? Allora, noi siamo ormai in tantissime scuole italiane, secondarie di primo e secondo grado, quindi innanzitutto ci rivolgiamo alle scuole perché vogliamo proprio far cambiare il modo con cui si insegna e si impara la matematica a scuola. Un ragazzo su quattro prende il debito a settembre di matematica, siamo come Italia sotto media OCSE nei test PISA, quindi sicuramente la scuola è il nostro primo target, ma in realtà ci rivolgiamo a tutte le famiglie che spendono centinaia di milioni di euro in ripetizioni private senza grandi, diciamo, risultati tutto sommato, no? Se si guarda ancora la performance scolastica dei ragazzi, quindi scuole e famiglie. In un mondo sempre più digitalizzato e tecnologico, anche professioni che un tempo erano in qualche modo lontane dalla matematica avranno un contatto ravvicinato, ecco, con questa materia. Sotto questo profilo è importante anche il coinvolgimento della quota rosa, per così dire. Ecco, voi che tipo di riscontro avete sull'amore per la matematica delle ragazze? Di falsi miti e di freni al talento, all'esplicitazione del talento femminile ce ne sono veramente tantissimi, perché la bambina brava in matematica è la secchiona, il bambino bravo è figo. Noi stiamo cercando di fare tantissimo, per esempio l'anno scorso abbiamo avviato una serie di interviste a donne impegnate nei lavori più diversi, perché appunto la matematica è ovunque, e che raccontano il loro rapporto non sempre tranquillo ma molto spesso assolutamente conflittuale con questa materia, che comunque riconoscono fondante per la loro carriera e il loro successo. Poche donne come Coco Chanel hanno saputo segnare l'immaginario femminile, non solo per quanto riguarda la moda e lo stile. La mostra Culture Chanel a Venezia, settima tappa di un percorso in diverse città nel mondo, indaga il suo rapporto con i libri e la letteratura. Ecco che cosa ha raccontato il curatore Jean-Louis Froment al microfono di Adriana Fracchia. Je pense que chaque femme... Ogni donna, penso che ogni persona di fatto adori la sua proiezione, no? E abbia di fatto dei modelli, sogni di essere un'altra persona, perché sono poche le donne che si accettano così come sono, quindi si costruiscono e si ricostruiscono di conseguenza. Io penso che nel corso della vita di Gabrielle Chanel lei si sia davvero costruita così come lei voleva costruirsi, e quindi ha associato tutta una serie di elementi della sua vita, la società, gli obblighi, anche la sua essere innamorata, finché in vecchiaia lei che cosa ha fatto? È riuscita a completare questo suo percorso d'immagine con la famosa allure di Chanel, no? Quindi da questo punto di vista ha fabbricato un immaginario. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, penso che di fatto ci siano davvero molte ancora le donne che ancora oggi siano ispirate da Chanel, no? Che le donne adesso hanno accettato anche di assumersi il potere, però ciononostante c'è anche molto da reinventare. Bisogna quindi avere fiducia nel futuro, perché sarà possibile, secondo me, reinventare uno stile, e ci vuole naturalmente molta forza, perché nel clangore che c'è nel mondo in questo momento, in questi rumori di fondo che ci sommergono, abbiamo bisogno di immagini nuove che non siano semplicemente immagini consumistiche, ma siamo davvero sommersi dalla mediocrità delle informazioni, difficile emergere da questa mediocrità delle informazioni, anzi siamo sommersi, ci fa negare questa mediocrità delle informazioni, quindi è difficile anche sapere, capire chi è che voglia guidare, chi è che voglia prendere la guida. Ecco perché io dico che il mondo in questo momento fluttua, no? E la moda ne è un esempio, la moda è sommersa da uno tsunami, perché si cerca, io cerco per esempio in quello che è la gioventù, cerco appunto di trovare una chiave per riuscire a reinterpretare queste cose, e forse questo lo si trova anche nella lettura. Anche il lusso guarda alla sharing economy, nuovi modelli di consumo conquistano anche le fasce più alte. Vi raccontiamo l'arrivo in Italia di una nuova piattaforma per l'ospitalità, un po' Airbnb, un po' hotel a 5 stelle. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, restate con noi.